465. Sogliole in gratella. Quando le sogliole, solea vulgaris, sono grosse, meglio è cuocerle in gratella e condirle col lardo invece dell'olio. Acquistano in questo modo un gusto più grato. Sbuzzatele, raschiate nelle scaglie, lavatele e poi asciugatele bene. Dopo spalmatele leggermente di lardo vergine di accio e che non sappia di rancido, conditele con sale e pepe e involtatele nel pangrattato. Sciogliete in un tegamino un altro poco di lardo e ungetele con una penna anche quando le rivoltate sulla gratella. Le sogliole da friggere, quando sono grosse, si possono spellare da ambo le parti o anche solo dalla parte scura, infarinandole e tenendole nell'uovo per qualche ora prima di gettarle in padella. Una singolarità di questo pesce, meritevole di essere menzionata, è che esso nasce, come tutti gli animali bene architettati, con un occhio a destra e uno a sinistra, ma a un certo periodo della sua vita l'occhio che era nella parte bianca, cioè a sinistra, si trasporta a destra e si fissa come quell'altro nella parte scura. Le sogliole e i rombi nuotano collocati sul lato cieco. Alla sogliola, per la bontà e delicatezza della sua carne, i francesi danno il titolo di pernice di mare. È un pesce facile a digerirsi, regge più di tanti altri alla putrefazione e non perde stagione. Si trova abbondante nell'Adriatico, ove viene pescato di nottetempo con grandi reti a sacco, fortemente piombate alla bocca, le quali, raschiando il fondo del mare, sollevano il pesce insieme con la sabbia e col fango in cui giace. Il rombo, la cui carne è poco dissimile da quella della sogliola ed anche più delicata, è chiamato fagiano del mare.